Ben trovata ai nostri microfoni e appunto la prima domanda che ti facciamo è, come avevamo anche detto a chi all'ascolto, parliamo anche un po' dell'8 marzo, che cosa è successo lì a Tunisi dove ti trovi, cosa hanno fatto i movimenti di donne. Per fare questo andiamo al giorno 7 marzo, ma ci spiegherai tu perché, insomma. Sì, innanzitutto vi saluto e sono molto contenta di essere su Radio Onda Rossa la prima volta nella mia vita. Comunque il 7 marzo a Tunisi, all'Università della Manuba, che è l'università alla facoltà di lettere in particolare, da diversi mesi in realtà ci sono dei gruppi di salafiti che insieme a delle donne col niqab, col velo integrale, e fanno delle manifestazioni, dei sit-in per rivendicare l'ammissione agli esami e alle lezioni delle donne vestite con niqab, e vorrebbero anche avere una sala per fare la preghiera. Ora, la tradizione civile laica della Tunisia, questa cosa non è mai avvenuta, e tantomeno in un'università della facoltà di lettere della Manuba. E sono diversi mesi ormai che le elezioni sono disturbate e purtroppo non esistono, non ci sono state reazioni da parte degli studenti della facoltà, perché purtroppo c'è è innato nel pensiero della maggior parte della popolazione che colpire qualcuno, un salafita, è una sorta di peccato, in quanto rappresenterebbe in qualche modo l'Islam. E questo fatto per la prima volta è stato contraddetto da appunto il giorno 7 marzo sul tetto della facoltà a destra del cancello sono saliti i salafiti, in particolare un salafita o presunto tale, che ha tolto la bandiera tunisina e l'ha sostituita con il drappo che rappresenta la Shahada, la dichiarazione di fede islamica. Normalmente questo drappo col colore nero veniva usato addirittura dagli islamici del periodo di Mohammed per andare in battaglia, quindi è anche comunque, a parte della dichiarazione di fede religiosa, è anche un simbolo aggressivo, un simbolo di guerra. E alla base di questa protesta, degli studenti salafiti, appunto, come avevo detto, c'è la richiesta del velo integrale. E gli studenti erano almeno un centinaio a guardare senza fare nulla, senza muoversi, e improvvisamente una ragazza è salita da sola sul tetto e all'inizio ha cercato di parlare con questo energumeno, che era molto alto, tra l'altro molto, molto grosso, e al suo rifiuto di parlare ha preso il drappo islamico ha cercato di rimettere la bandiera al suo posto. E a questo punto il salafita l'ha gettata a terra. E qualcuno ha detto che l'ha picchiata, ma dal video non è successa. E diciamo che questo è molto simbolico della condizione attuale della donna in Tunisia, che è assolutamente al primo posto in tutte le battaglie. E questa ragazza, che si chiama Haula Rashidi, è una studentessa della facoltà di lettere, è stata premiata ieri dal Presidente della Repubblica con una medaglia al valor civile. E c'è stata finalmente questa cosa, e ha provocato una reazione nell'opinione pubblica, che fino adesso aveva vissuto abbastanza passivamente queste vicende dei salafiti, e soprattutto ha messo di nuovo il governo di Ennahda, il governo a ispirazione islamica, con le spalle al muro, perché prima o poi dovrà reagire di fronte a queste azioni dei salafiti, perché loro si proclamano degli islamici moderati. Ecco, questo che volevo mettere in evidenza, come appunto questo atto compiuto da una donna simboleggia quello che è la prima fila delle lotte in questo paese contro ogni tentativo da parte specialmente di questo governo cosiddetto moderato islamico di riportare indietro nel tempo tutta la condizione femminile che appunto in Tunisia fra i paesi arabi è la condizione la più Più avanzata dal punto avanzata, di sì. vista dei diritti, esatto. E, a questo proposito vorrei ricordare appunto che l'8 marzo, il giorno dopo, la manifestazione ha assunto inevitabilmente un altro significato, un altro valore, al di là della celebrazione rituale della festa delle donne, per affrontare nuovamente il problema di una società conservatrice, di una società che nonostante abbia appunto iscritto nel codice dello statuto della donna la gran parte dei diritti fondamentali e inalienabili, vive ancora delle contraddizioni evidenti nel comportamenti quotidiani, in una società che è del tutto patriarcale, nella realtà appunto quotidiana. E quindi accanto alle rivendicazioni per non tornare indietro, per andare ancora avanti nella lotta per i diritti delle donne, si è affiancata questa rabbia, senso di rabbia nei confronti del governo che non sta facendo nulla contro questi estremisti islamici. Particolarmente pesanti per le donne, magari per chi è all'ascolto, ricordiamo che questo video si può vedere effettivamente nel sito del 2511, gruppo di Milano, insomma, abbiamo ospitate più volte in queste trasmissioni, quindi anche per dare un'idea, insomma, effettivamente della portata simbolica anche in quel momento, insomma, del gesto in effetti. E senti, appunto, poi si è svolto quindi l'8 marzo con questo tipo di rivendicazioni che bene ci spiegavi e sui gruppi, su come sono organizzati questi movimenti di donne, puoi dirci qualcosa? Hai avuto modo? Sì, dunque, diciamo che il gruppo più importante, storico tunisino di donne, di femministe, è l'Association des Femmes Démocrates Tunisiennes, l'Associazione delle Donne Democratiche Tunisine, che è nata nel 1989 e che ancora oggi rivendica il cambiamento anche del codice dello statuto delle donne, perché questo codice, per quanto avanzato, per quanto sia stato innovativo, si ispira anche ancora in maniera ambigua in parte al diritto islamico. Per esempio, le donne in Tunisia non hanno ancora diritto all'eredità. Cioè, faccio un esempio. Siccome è scritto in una sura del Corano che l'uomo avrà la stessa in eredità la stessa quant la quantità che avranno due donne, quindi stiamo parlando di una donna riceve in eredità la metà. Se muore un genitore, faccio un esempio, il maschio ha diritto al doppio della donna. Su questa cosa le Femmes Démocrates, appunto questa associazione storica, sta conducendo delle battaglie importanti. Un'altra cosa che fanno queste compagne hanno aperto dei centri di ascolto contro la violenza familiare. E questa è si tratta di un per il mondo arabo assolutamente di una cosa come dire inusitata, in quanto sono delle sono come dire la situazione patriarcale è una situazione per lo più acquisita, mentre in Tunisia è continuamente in discussione grazie a questi movimenti. E perché appunto questo codice dello statuto della donna in realtà era ispirato ad un femminismo a geometria variabile, possiamo dire, perché mancava di un progetto collettivo di modernità. E era come dire. pieno di contraddizioni proprio perché continuamente ambiguo nelle sue esplicitazioni. Questa è la lotta fondamentale. Insieme a questi centri di ascolto contro la violenza in famiglia, che si fanno faticosamente strada perché il silenzio è la norma, specialmente nelle famiglie più povere, fra le donne dei villaggi, le donne delle campagne, che vivono costantemente una situazione di oppressione. Cioè, stiamo parlando, e non sto scherzando, di oltre il 50% di donne che subiscono violenze fisiche e psicologiche in questo paese. Beh, una percentuale significativa, insomma. Un'altra cosa importante che stanno facendo le donne in Tunisia, a febbraio c'è stato un importantissimo seminario per ottenere l'iscrizione dei diritti della donna all'interno della Costituzione tunisina. Quindi questa sarebbe un'altra cosa abbastanza innovativa. Inoltre esiste una università femminista che si chiama l'Università Ilham Marzouki, nella quale non ci sono dei veri e propri corsi con un insegnante e un auditorio che ascolta, ma c'è una forma innovativa di lezioni dove ci si scambia continuamente la cattedra fra le varie donne. Ah, che cosa carina. sì, bello. Esatto. E quello che poi volevo aggiungere era che in Tunisia la festa delle donne è celebrata anche il 13 agosto, proprio per ricordare l'anniversario della la promulgazione di questo codice. Ah, quindi. Che, esatto. E la prima parlamentare tunisina, Radia Haddad, ha fondato nel 65 una piccola casa editrice che è stata fatta soprattutto su problematiche femminili. E poi che altro vi posso dire? Non so, fatemi un po' di Sì, domande. vabbè, a questo punto ti chiediamo anche se esistono, se tu le conosci, se sei comunque a conoscenza di rivendicazioni anche da parte delle lesbiche, per esempio, in Tunisia. Sì, esatto. Questo è un argomento assolutamente tabù in Tunisia. Cioè, la condizione omosessuale è la condizione, direi, più tragica, in quanto l'omosessualità è considerata un peccato dal Corano. Anche dal Vaticano. Esiste addirittura una legge che condanna la sodomia e si può arrivare fino a 5 anni di prigione, con Ah. un'ammenda di circa l'equivalente di 1.000 euro. E 5 anni di prigione. Ora, nel 97 è stato riconosciuto l'asilo umanitario ad un gay tunisino negli Stati Uniti, e questo è purtroppo quello che molte mie amiche lesbiche pensano di dover fare, cioè andarsene da questo Lasciare il paese, paese. perché non sembra esserci una soluzione a questo, e addirittura un anno fa, proprio poco più di un anno fa, a febbraio, immediatamente dopo la rivoluzione, una mia amica che ho conosciuto naturalmente quando sono venuta qui, mi ha raccontato la sua vicenda, che durante una serata a casa di amici, alla porta hanno bussato urlando Allahu Akbar, Dio è grande, e hanno cercato di sfondare la porta con delle scimitarre. E lei ha cercato di andare a chiamare soccorso, però stavano al primo piano e ha cercato di calarsi con un lenzuolo dal balcone, ma purtroppo è caduta e è rimasta con delle gravissime fratture al bacino e al ginocchio, e purtroppo è proprio di questi giorni la notizia che rimarrà zoppa per tutta la vita, non c'è più niente da fare. Ha fatto naturalmente una denuncia e le è stata riconosciuta anche un'indennità, però l'ultima notizia recente è che sembrerebbe che la polizia addirittura abbia cambiato i termini del processo verbale, dicendo che che lei si sarebbe buttata per paura e non Si insomma, sono che sarebbe. chiesti di cosa aveva paura, insomma, di Appunto, chi. questa è la contraddizione. E comunque hanno detto, volevano dire, le hanno accusate di essere ubriachi e cose di questo tipo, ecco. Hanno trasformato la cosa e questa è la cosa che l'ha fatto pensare di andare via. Diciamo che la condizione, quella, l'omosessualità maschile è quasi quasi tollerata, vi è una tradizione anche nell'Islam stesso, nella produzione letteraria, che parla della omosessualità maschile, La senza potenza del troppi tabù. patriarcato proprio. Mentre nell'omosessualità femminile, viene continuamente negata, viene, continuamente, come dire, non appare, non se ne parla. Vabbè, è la prima arma, Sì, l'invisibilità, esatto. È sappiamo una forma bene. di repressione terribile, insomma, veramente, di negazione dell'esistenza. Ma quindi fondamentalmente vivono in clandestinità, più o meno. Assolutamente in clandestinità. Tra l'altro, una delle maniere, la mia amica ha una compagna. E non, in questo momento sono disoccupate entrambe, quindi non possono avere una casa insieme, avere una vita in comune da coppia. E quindi vivacchiano a casa dei genitori di una o dell'altra, e quello che le lesbiche tunisine fanno, anche gli omosessuali in generale in Tunisia, per poter sopravvivere, per poter convivere. E fanno dei matrimoni combinati, nel senso che un omosessuale maschio, per esempio, si sposa con una lesbica sua amica. E Vabbè, sì. fanno un matrimonio tradizionale, fra virgolette. Strategie Esatto. di Ognuno di loro sopravvivenza. continua ad avere la sua Chiaro. relazione con la sua compagna o con il suo compagno. Quindi. Comunque, la situazione è veramente drammatica da questo punto di vista. E il fatto anche che molte vogliano andare è anche un po' significativo, forse sì, dell'enorme difficoltà anche solo a pensare che in quel paese prima o poi qualcosa si muova da quel punto di vista. Eh sì, sinceramente la vedo veramente dura, la vedo I difficile. movimenti, diciamo, delle donne, i movimenti femministi non accolgono, Sì, non so, anche accolgono. questo aspetto, oppure se ne No, parla comunque. già la stessa Associazione delle Femmes Democrate all'interno hanno degli avvocati che ogni tanto si occupano di queste problematiche, però diciamo che non è stata affrontata la tematica nella sua completezza, cioè nessuno ha il coraggio di affrontarla a Beh, viso non ci aperto. preoccupi, neanche in Italia nessuno ha il coraggio di affrontare questa tematica nella sua completezza, quindi, cioè sì, Certo, diciamo che chiaramente la situazione è un po' più difficile e complicata, soprattutto perché c'è un sì. rischio forse più alto per quanto riguarda la propria vita, ma non è che qui da noi tipo, poi tipo, sì, stia Esatto. così tanto meglio, bene, o okay, che i nostri integralisti quotidiani dal Vaticano in su in giù ai politici Mi sento male. ci rendano la vita migliore. Pronto? Sì, Mi senti? sì, No, eccoci. eccoci. Senti, Ok. visto che come ultima domanda, poi magari ci dici tu quanto ne sai, insomma, noi abbiamo seguito da questi microfoni la campagna da una sponda all'altra Sì. e ne abbiamo parlato poi soprattutto per quanto riguarda l'Italia, quindi non so se tu che invece ti trovi in Tunisia, parliamo ovviamente della campagna sui tunisini emigrati dispersi, se tu ci puoi raccontare dalla parte della tua sponda come va invece. Dunque, come accennavo prima fuori onda, io ho dei problemi con la lingua, quindi i miei contatti sono molto mediati da mio marito. Però vi posso dire che l'impressione è che appunto la rivoluzione del 14 gennaio ha liberato anche le voci di chi non aveva il coraggio, la forza di esprimere le proprie rabbie, le proprie la volontà di ottenere i propri diritti. L'esempio tipico è appunto questo di queste famiglie che sarebbe stato impensabile un anno e mezzo fa, soltanto un anno e mezzo fa, poter andare costantemente, sto parlando di praticamente tutti i giorni, davanti ai vari ministeri implicati nella faccenda, a fare sit-in, a fare scioperi della fame, a dare calci, ho visto io personalmente, a dare calci all'automobile dei ministri per farsi sentire. E finalmente, non so se voi anche l'avete saputo, sembrerebbe che le impronte dei ragazzi dispersi siano arrivate in Italia per il famoso confronto con le impronte di chi è stato registrato nei CIE e nei CARA. Questa è l'ultima notizia. Le donne che io ho incontrato sono donne come dire, donne molto semplici che vivono una quotidianità misera, fatta di poche cose. Molto spesso sono state loro stesse a spingere i ragazzi ad andarsene per avere una speranza di avere qualche soldo in più da parte loro che se avessero eventualmente trovato un lavoro in Europa. E certamente c'è un altro fatto che la Tunisia, diciamo, la maggioranza dei tunisini non vede di buon occhio questi Harragas, questi che hanno bruciato le frontiere, hanno approfittato della rivoluzione per dare anche un senso di libertà diverso rispetto ad altri. E non vedono di buon occhio questa cosa perché è una cosa contro la legge e qui, siccome ancora vige il conformismo, nonostante ci sia stata questa rivoluzione, fra virgolette, e si parla poco, si dice ma in fondo che cosa volete, siete stati voi stessi a mandarli. Quindi non è che siamo contornati in questa battaglia, contornati da grande solidarietà. E sono le famiglie stesse che fanno tutto da sole e sono veramente molto molto in gamba, specialmente le donne, perché poi sono la maggior parte sono le madri. Eh sì, eh sì. Patrizia, noi ti ringraziamo moltissimo di questa panoramica che ci hai fatto sulla Tunisia e poi sulle donne Grazie e le lesbiche in Tunisia. Se non ti dispiace, noi magari qualche altra volta ci rivolgiamo a te per aggiornamenti, visto che ti trovi là, insomma, a vivere. Ci piacerebbe, insomma, Senz'altro. sentirci ogni tanto. Volentieri, è stato un grande piacere per me. Sì, anche per noi. Grazie e allora a A presto. presto. Va bene, ciao, grazie a Ciao, voi. ciao, ciao. Ciao.